1, 2, 1, 2, teste. Vixe. Mais uma vez chegando pra mandar o recado. A trupe dos enganjados. Envolvido 100%. Conexão Brasil-Itália. Simon desembarcando na área. Se liga aí, moleque. Vê se aprende, não se esquece. Vida louca, sulle dita, come loca la mia vita. Non accetto la tua clausola e che Dio ti maledica. Preferisco stare nel mio mondo, davanti una bottiglia finché non ne vedo il fondo. Tanto questo è quello che vuoi bello, vedermi stramazzare per poi criticarmi meglio. Quello che mi offre è nullo, comunque non è niente che io voglio. Io sono il tuo colpevole, l'errore fatto uomo che non creda alle tue favole. Il bandito da impiccare che al tuo mondo non è favorevole. Io sono antisociale negativo, forse internamente sadico e cattivo. Nelle mie vene scorre sangue radioattivo. Il criminale su cui puoi puntare il dito. Io me ne fotto delle tue etichette. Sono io quello che grida alle 3 di notte. Quello che prende a calci le bottiglie rotte. Per non parlare delle volte in cui faccio a botte. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti quanti pazzi. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti, tutti pazzi. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti quanti pazzi. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti quanti pazzi. Não sou kamikaze, não sou do Hamas. Mas meu recado é mais tenebroso que um atentado eficaz. Quero fazer justiça nessa grande esfera. Luto contra esse sistema que ninguém mais tolera. Quero fazer o bem, ser um exemplo também pra quem está na mesma correria, parabéns. Discurso em palanque, grito na roda gigante. Revolução sim, união sem bang bang. Na máfia dos aliados sou Don Corleone. Aqui a única arma em combate é o microfone. Disparando e de revolta pelo alto falante, causando tchutchipane em certos habitantes. Relaxa e põe na seda, cai o hashi, o skunk, pode crer. Isso é o que corre no meu sangue, maloqueiro é maloqueiro. No mundo todo então, queimou um solto, sai desse sufoco. Mundo louco, todo mundo louco. Tutti pazzi, tutti quanti pazzi. Mundo louco, todo mundo louco. Tutti pazzi, tutti tutti pazzi. Mundo louco, todo mundo louco. Come un treno avanza inesorabile. Trasformo in rima la mia rabbia insaziabile. Tecnicamente inarrivabile. Nei tuoi confronti volo alto come fossi un dirigibile. Inafferrabile. E dai tuoi commenti inattaccabile. Comportamento antisociale con tendenza instabile. Propenso al vizio. Sempre tengo la mia mente in esercizio. Con la lirica mi perdo nell'eccesso. Ehi, sai maluco, presta attenzione alla parada. È tempo di mudarsi, sta na ora da virada. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti quanti pazzi. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti tutti pazzi. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti quanti pazzi. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti quanti pazzi. Mondo loco, todo mondo loco. Tutti pazzi, tutti quanti pazzi. Mondo loco, todo mondo. Tutti pazzi, tutti tutti pazzi. Mondo loco, todo